Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Il viaggio di oggi nelle PMI fa un salto nel Triveneto che traina la ripresa. In testa c'è il Prosecco di Conegliano e Valdo Biadene, al secondo posto il comparto dell'occhialeria nel Bellunese. Ma a vincere è tutto il sistema Veneto. Se lo scorso anno, secondo il rapporto Intesa San Paolo, ben 7 distretti su 15 più in crescita a livello nazionale erano veneti, un risultato che sembrava inarrivabile, nel 2016 si è riusciti a fare ancora meglio, arrivando a quota 8. Dopo Prosecco e occhiali ci sono i dolci e la pasta veronesi, la plastica di Treviso, la meccanica strumentale di Vicenza e la termomeccanica scaligera. La prima storia è in pieno quella del settore tradizionale radicato nel Veneto, il vitivinicolo. 400 anni fa, nella Valle dell'Adige, inizia la storia di Albino Armani. Tutto cominciò il 7 dicembre 1607, quando Domenico Armani firmò un documento notarile, ora custodito nell'archivio storico di Trento, che gli consegnava i terreni appartenuti al padre Simone. Una storia di 4 secoli ancora attuale che ci racconta Albino Armani. La nascita nostra territorialmente parte dal Trentino, dal basso Trentino, la Valle Garina, dove nel 1607, appunto, che è quel numerino che compare in tutte le etichette della nostra comunicazione, parte la nostra famiglia con la coltivazione di terreni con arbori e vigne. Cioè, l'archivio notarile di Trento erano abbastanza precisini in Trentino, annotavano tutti i passaggi di proprietà e quindi siamo riusciti a scendere fino al 1600. Ovviamente non è che un'azienda inizia nel 1600, diciamo che i nostri terreni, le superfici vitate partono da quella data. Poi non c'è mai stata una soluzione di continuità, una sorta di tranquillità nel poter dire, ecco, che si può vivere di viticoltura come è successo a noi fortunatamente per centinaia d'anni. Quindi, ecco, con una sopravvivenza parecchio lunga e siete arrivati mano verso la Valpolicella e verso i terreni e discesi verso, insomma, il lago. Ecco, questo territorio per voi quanto è importante? Territori, poi l'azienda adesso agisce su 3 territori, su 3 regioni diverse, quindi dal Trentino alla Valpolicella, poi siamo arrivati in Friuli, poi nella zona del Conegliano Valdobbiadenese, e oggi le cantine sono 5 su un territorio di circa, su un vigneto di circa 250 ettari, quindi una varietà di vitigni, di interpretazioni territoriali molto vaste, no? Quindi abbiamo della viticoltura in quota in Valpolicella, le viticolture estreme in Trentino, 800 metri per il Pinot Nero, gli Chardonnay per il Barre Spumante, il Friuli con i vitigni autoctoni fantastici, un'esperienza biodinamica nel cuore del Prosecco, nell'areale vicino a Conegliano. Quindi non c'è azienda nulla più radicata nel territorio di quella vitivinicola, cioè come le stesse viti è attaccata, come dire, ai propri territori. Voi ne avete, appunto, diceva 3. Ecco, però nel tempo e anche con le crisi, come dire, come le stagioni, si sono abbattute delle difficoltà. Voi come avete fatto a sopravvivere e a rimanere, appunto, in Italia, nel territorio, ovviamente legati al vostro business? Sì, se ne sono viste tante, specialmente negli ultimi anni, no? Io ero seduto, sono abbastanza vecchietto, ero seduto sulla scrivania anche nell'epoca del metanolo, quindi da lì esci in qualche maniera vaccinato, da lì ne è nata poi un'enorme potenzialità interpretativa, una volontà di riscatto, di rinascita che forse unica nel settore dell'agroalimentare ha fatto da discrimine chiaro tra quello che era pre e quello che è post. Oggi sono convinto che i tavoli delle regole siano totalmente da valorizzare, e io sono fortunato di gestire anche la presidenza del nuovo consorzio delle Venezie, Pino Grigio. Quindi sono convinto che il futuro sarà quello della tracciabilità, della sostenibilità, che abbiamo tanto utilizzato questo termine, soprattutto nella tracciabilità dei progetti. Poi, i numeri dei dipendenti, i numeri dell'azienda, il vostro modello di business, per dare una dimensione della vostra... Senza prendere in carico il momento della vendemmia o quant'altro, dove si supera sicuramente il centinaio, perché insomma su 250 ettari di vigne, però all'interno dell'azienda adesso siamo intorno a una quarantina di persone, quindi con un fatturato intorno ai 45 milioni di euro solo per la commerciale, più altri 6 o 7 sull'azienda agricola. Diciamo che il gruppo è formato da una quarantina di persone, più tutta una serie di dipendenti che agiscono durante la vendemmia. Attraverso il vino c'è anche un territorio da visitare. Che invito fa lei a visitare, appunto, le zone in cui produce il suo vino? Quello che diceva mio padre, in una bottiglia di vino ci sono 4 grappoli d'uva, quindi alla fine non diamo troppo valore anche all'aspetto molto alto di quello che stiamo facendo, facciamolo legati veramente alla terra, cerchiamo di capire quanto sia la possibilità di portare sul territorio il valore del prodotto che esportiamo in tutto il mondo. La nostra azienda esporta per il 70%, 70-75%, quindi siamo orientati fortissimo all'esportazione. Quello che prendiamo da fuori lo riportiamo per forza e anche con orgoglio sul nostro territorio. La nostra, come lei ha capito, come voi avete capito sicuramente, era un'azienda piccolina, povera, che ha vissuto della viticoltura o dell'agricoltura, proprio era l'unico modo per sopravvivere, non era vista in modo alto. Quando uno parla 1607 magari uno pensa chissà che razza di blasoni o quale, no, era veramente territorio di grande semplicità e di povertà. Io me ne ricordo benissimo la rivoluzione degli ultimi 50 anni, io ne ho 56-57, l'ho vista tutta, quindi me la sono vissuta sulla pelle. Per noi il vino era sostanza, non era blasone, non era racconto, ma era proprio sostanza. Quindi la semplicità che lui diceva, tenete i piedi per terra, non andate a esagerare nel racconto di quanto contiene la bottiglia, perché la bottiglia è sempre frutto di una vita, secondo me, legata a questi quattro grappoli d'uva. Pertanto che tu possa poi credere che il messaggio possa superare il prodotto è sbagliato. A volte bisogna stare attenti anche nel raccontarsi adeguatamente e sinceramente. Insomma, rimaniamo con i piedi per terra su una semplicità territoriale che ha sempre caratterizzato e contraddistinto i nostri territori. Le Bretelle and Braces è una piccola azienda trevigiana fondata nel 2004 dai fratelli Rossanna e Mirko Merlo. Dopo più di 30 anni di esperienza nel settore della produzione di accessori da uomo, i fratelli Merlo decidono di cominciare a produrre bretelle e cinture fatte totalmente a mano come una volta, con una capacità artigianale tipica del distretto Veneto. Tutti i prodotti sono realizzati in Italia e le materie prime vengono selezionate tra i migliori produttori in Italia e Francia. Le bretelle vengono cucite e confezionate solo nel laboratorio a Treviso, così come le cinture elastiche interamente intrecciate a mano. L'azienda produce bretelle anche per il Teatro della Scala di Milano per la realizzazione di bretelle e cinture per le opere teatrali e nasce dall'artigianalità di famiglia, come spiega Mirko Merlo. La storia, diciamo, inizia nel 2004, quando un'esigenza personale dell'attività del momento, che è stata quella di commercio ambulante ereditato dal padre a sua volta da mio nonno, proprio ci serviva un prodotto, la bretella, di qualità superiore a quello che il mercato al momento offriva, ovvero non un prodotto dozzinale e un prodotto rifinito bene. Non trovandolo, mi sono così ingegnato di provare, e quindi consultando la rete ho trovato chi potevano essere i fornitori, a me assolutamente sconosciuti, sia dei materiali elastici che piuttosto dei materiali metallici, e poi da lì è nata una bretella. L'articolo, cioè la bretella, è ovviamente un articolo che è stato di moda tantissimo in passato. Era ancora di moda? Che anni erano in cui è nata questa idea? L'idea è nata nel 2003, che poi si è concretizzata appunto nel 2004. Non era un articolo così di moda o di tendenza. Ma lei veniva già da una famiglia che il commercio lo aveva sperimentato sulla propria pelle, ovviamente nel territorio, perché il commercio ambulante si fa girando nel territorio, e che ovviamente conosceva molto bene la zona. La zona che cosa presentava e che cosa presenta come settori di punta? Beh, i settori di punta logicamente siamo nel distretto del manifatturiero Treviso, con le realtà importanti che tutti conoscono. È un punto importantissimo, lo sappiamo tutti, negli anni d'oro del boom economico del Triveneto, qui c'erano laboratori dappertutto come manifatturiero, maglieria, eccetera. E poi non dimentichiamo la zona della pelletteria e delle scarpe, che è quella della Riviera del Brenta, anch'essa che è tuttora una realtà molto importante tra le diciamo le più esclusive nel settore appunto della calzatura. Vi inserite in questo panorama amplissimo di industria. Non siete un'impresa molto grande, siete una microimpresa in cui le mani sono importanti. Esatto, noi ancora trattiamo la bretella con artigianalità. Siamo quattro soci, perché siamo io, mia sorella, i due figli miei, che sono entrati da un paio d'anni in azienda, e abbiamo sette dipendenti che però tutti lavorano con estrema cura. Chi ama le bretelle? Qual è la persona tipo? Il target dei negozi e delle attività che noi serviamo è di fascia medio-alta. Non c'è una vera e propria identità di chi usa la bretella. Diciamo che, a differenza di quando negli anni 80 è stata di moda, perché c'è stato un periodo che è stata di grande moda, lanciata dal giovane Giovanotti, che li utilizzava alla grande e ne ha fatto un oggetto di moda, adesso è diventato un oggetto di uso. La bretella è tornata a diventare molto comoda, innanzitutto. L'artigianalità la prendete dalla vostra zona e anche i materiali? Il materiale elastico, purtroppo negli anni le aziende che si sono dedicate all'elastico sono sempre meno, e poi non ultima una crisi che ne ha fatte chiudere parecchie. Quindi abbiamo qualche realtà qui in Italia dove ci serviamo, altrimenti ci serviamo un'importante azienda belga e da una spagnola. Per quanto riguarda invece la minuteria metallica, tutti i prodotti assolutamente italiani. Al massimo ci spostiamo in Germania per comprare dei materiali, appunto, come l'Eclipse o gli accorciatori. Da Treviso all'Oriente avete viaggiato un po' come Marco Polo e avete percorso già delle vie che l'aveva esplorato. Il Giappone, assolutamente, la Corea, dove abbiamo anche la Corea del Sud, dove abbiamo anche un distributore, e poi Hong Kong, oltre in Australia. Quindi la via della seta, siete andati anche oltre. Ecco, i numeri importanti. Per una microimpresa come voi, qual è il fatturato, qual è il modello di business? Dateci delle misure. Allora, noi come fatturato stiamo cercando di arrivare a fatidico milione di euro, insomma. Questa e altre storie in anteprima, inedite in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina di programma Voci d'impresa e curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di piccola impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di piccola impresa, e il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.